L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nuova stagione, nuovo orario. D'ora in poi ci troveremo infatti sempre alle 14.30 in questo spicchio di pomeriggio che su Radio 24 precede il Sabato del Villaggio con Marta Cagnola, un orario in cui il sabato, oltre ad ascoltare Marta, spesso ci si mette in moto, magari per andare a fare la spesa. Se questo è quello che state per fare e se durante l'estate avete seguito un po' la discussione sugli oli di palma, che è imperversa ormai da qualche mese, ecco, stiamo per darvi qualche chiarimento e indicazione in più sulla questione. E per farlo siamo andati in Malesia. No, magari fossimo andati in Malesia, purtroppo l'abbiamo dovuto fare via telefono. A rispondere alle nostre domande è stato Stefano Savi, Global Outreach and Engagement Director di RSPO, che sta per Roundtable on Sustainable Palm Oil, tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile, un'organizzazione non governativa, con molti portatori di interesse, come si dice in inglese stakeholder, fondata nel 2004 per minimizzare gli impatti sociali e ambientali delle coltivazioni per l'olio di palma. Attualmente l'olio di palma certificato RSPO nel mondo è pari al 20% in crescita, fortunatamente. In una puntata precedente, quindi quella del 1 agosto per chi la vuole riascoltare, abbiamo parlato dell'aspetto nutrizionale dell'olio di palma. Questa volta parliamo con chi si occupa della minimizzazione degli impatti, come abbiamo detto, sociali e ambientali, e quindi diamo spazio a Stefano Savi. Io sono in Malesia ormai da 3 anni, ho iniziato a lavorare con RSPO, che è la tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile, più o meno 2 anni e mezzo fa. In Malesia, perché la Malesia è il maggiore produttore? La Malesia era il maggiore produttore fino a, diciamo, 5 o 6 anni fa. Ad oggi l'Indonesia ha preso piede come maggiore produttore dell'olio di palma. Però diciamo che quando la RSPO fu fondata nel 2004, la decisione di avere il segretariato di base a Kuala Lumpur in Malesia è stata appunto presa perché al tempo la Malesia era in effetti il primo produttore di olio di palma. Diciamo che la Malesia e l'Indonesia comunque ad oggi coprono più o meno dall'80 al 90% di quella che è la produzione dell'olio di palma, generalmente parlando. E che obiettivi ha questa tavola rotonda? Cominciamo a spiegare un po' tutta l'attività. Certo, la tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile, o RSPO come la chiamiamo noi, è un'associazione no profit che è nata nel 2004 ed è composta da coltivatori, raffinatori, esponenti dell'industria manifatturiera, distributori, banche, investitori e anche dalla società civile, rappresentata dalle organizzazioni non governative attive nel campo ambientale e sociale. La RSPO ha il compito di creare e implementare degli standard globali per la produzione e l'uso di olio di palma, appunto, certificato sostenibile, di modo da minimizzare quelli che sono gli impatti sia ambientali ma anche sociali che sono derivati dalla produzione di una monocultura. E questo viene fatto attraverso un protocollo di sostenibilità che è composto da 8 principi. La garanzia è che appunto l'olio arrivi da piante coltivate in terreni che non sono state direttamente oggetto di deforestazione o che non hanno avuto impatto sulle popolazioni locali. Dunque, io ho visto i principi, tra cui ne cito qualcuno: impegna la trasparenza, rispetto di leggi e regolamenti in vigore, sviluppo responsabile delle nuove piantagioni. I criteri invece quali sono? I criteri sono 38, a dire la verità, dopo l'ultima revisione delle pratiche sono 41 al momento, quindi diciamo che ognuno di questi principi viene suddiviso in ulteriori criteri che servono poi appunto a far sì che la certificazione possa essere messa in pratica. E questo avviene attraverso l'utilizzo di auditor indipendenti, che è un po' il punto di forza, se vogliamo, della RSPO, in quanto questi auditor assicurano che la certificazione del prodotto lungo l'intera filiera, quindi dai coltivatori fino ai produttori di beni consumo e ai supermercati, avvenga in maniera sostenibile. Quindi in pratica questi 41 sono suddivisi all'interno degli 8 principi? degli 8 principi, esatto. Quindi, come diceva lei prima, alcuni si trattano appunto si occupano dell'impegno alla sostenibilità di tutto economico finanziario di lungo termine, all'utilizzo delle best practices, quindi di pratiche appropriate da parte sia dei coordinatori e dei monitori. Ci occupiamo anche di responsabilità ambientale, protezione delle risorse naturali e della biodiversità. Infatti uno dei punti principali della certificazione RSPO è che non è permesso nessuno sviluppo di foresta primaria o di foresta secondaria con alto valore di conservazione, quindi diciamo foresta dove c'è dell'alto valore di biodiversità o un coinvolgimento delle popolazioni locali. Parliamo sempre di olio di palma in termini di alimentare, in realtà si utilizza nei più svariati campi. Sì. Diciamo che l'Italia è il secondo importatore in Europa dopo i Paesi Bassi, ecco. Con importazione nel 2014 di più o meno 1,7 milioni di tonnellate di olio di palma. Quasi 20% in più rispetto all'anno precedente per l'Italia, quindi stiamo parlando di numeri abbastanza importanti. Diciamo che circa 2/3 però dell'olio di palma che è importato in Italia è impiegato per cosiddetti usi tecnici, questi sono definiti per legge come usi che possono essere per esempio la produzione di energia o di luce e calore. Per esempio, mentre per il rimanente diciamo che è più o meno il 21% secondo alcune stime è utilizzato per l'industria alimentare. Quindi dovremmo proprio invertire le proporzioni. Diciamo che è il mercato che comanda un po' per quanto riguarda gli utilizzi, ma dal punto di vista dell'RSPO diciamo che ha poco... poco importa, nel senso che la cosa importante è che tutto l'olio che viene utilizzato dovrebbe essere prodotto in maniera sostenibile. Questo indipendentemente dall'utilizzo che viene fatto poi. Certamente, no, questo senz'altro. Dunque, come funziona il meccanismo, diciamo, di controllo vostro? Allora, la certificazione RSPO, come dicevo in precedenza, si basa su degli auditor indipendenti, quindi ci sono dei corpi certificatori, diciamo, che certificano le compagnie che sono indipendenti da RSPO. E questi auditor sono accreditati inoltre da un ente internazionale che si chiama ASI, che è Accreditation Services International, che si occupa di garantire che questi auditor operino in maniera aderente alle normative e alle regole fissate da RSPO. Quindi se vogliamo abbiamo dei poliziotti che controllano i produttori, ma abbiamo anche i poliziotti che controllano i poliziotti che vanno a controllare i produttori, quindi c'è una doppia garanzia di indipendenza. Abbiamo due tipi di certificazione come RSPO: una è la certificazione sui principi e criteri che viene applicata ai produttori e l'altra è la certificazione della filiera. Quindi questa è una certificazione della catena di custodia, diciamo, della catena produttiva, e viene applicata a quelli che sono le organizzazioni o comunque i componenti dell'industria, diciamo, che comprano e vendono e utilizzano l'olio di palma. Per quanto riguarda la certificazione sui principi e criteri, quindi quello dei produttori, la certificazione viene fatta a campione viene fatta su tutti i mulini ed a campione sulle piantagioni, e la certificazione ha una validità di 5 anni, però deve essere rinnovata ogni anno con un audit di rinnovo. La certificazione può essere anche tolta a qualsiasi punto nel caso che vengano dimostrate delle inadempienze rispetto alla messa in pratica delle regole della tavola rotonda. Dunque, leggevo di questo possibile obiettivo al 2020 che potremmo in Europa aggiungere ai tanti che ci siamo dati per il 2020, il consumo di 100% di olio di palma certificato sostenibile in Europa. Come si sta lavorando in quella direzione? L'obiettivo del 2020 per 100%, di avere il 100% di utilizzo di olio certificato in Europa è un obiettivo importante, però pensiamo anche raggiungibile. Molte nazioni in Europa hanno avuto già degli ottimi risultati, parliamo per esempio dei Paesi Bassi o anche dell'Inghilterra, che hanno ad oggi già un utilizzo maggiore del 60%, in qualche caso anche maggiore del 70%, dipendentemente dai dati che vengono utilizzati per fare questo censo. È importante sicuramente che tutte le aziende aderiscano a questo obiettivo. Il primo passo, quello che vorremmo, è contribuire associandosi alla RSPO, e quindi una delle cose che stiamo cercando di fare è di aumentare la sensibilizzazione appunto dell'industria. L'Europa è sicuramente importante, però l'obiettivo di RSPO non è soltanto un obiettivo europeo. Abbiamo anche degli obiettivi internazionali, per esempio abbiamo degli obiettivi sull'Indonesia e sulla Malesia, che sono dei mercati anche dal punto di vista del consumo sempre più importanti, e anche per quanto riguarda l'India e la Cina, dove magari il tema della sostenibilità non è ancora così sviluppato, ma dove sicuramente il mercato sta avendo sempre più importanza dal punto di vista dei consumi. Ancora grazie a Stefano Savi, ricordo Global Outreach and Engagement Director di RSPO, se volete cercare su internet e avere più informazioni. Per la seconda parte della puntata resteremo in ambito vegetale, ma andremo molto molto più vicino a noi. Dalla Malesia andiamo alla Rete degli Orti Botanici della Lombardia, una bella gita possibile anche con i bambini. Per questo e altri fine settimana, tra poco. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Pronto, amore? Amore? Amore, dove sei? Mi manchi da morire, amore. Ho bisogno di sentire la tua voce. Anche tu mi manchi moltissimo, amore. Ma proprio tanto. Guarda, per starti molto vicino ho scritto una bellissima poesia che vorrei anche recitarti adesso. Tu manchi, però. Quando la luna si affaccia nel cielo... Io... Pronto? Amore? Amore? Mi sa che gli è piaciuta tanto, è svenuta. Ma una voce giusta può aiutarci a vivere meglio. Scopriamolo insieme. Voice Anatomy, il nuovo programma di Pino Insegno, io, da domenica 13 settembre alle ore 14.30 su Radio 24. E che dici? Rifaccio? L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, abbiamo parlato di olio di palma sostenibile nella prima parte di questa puntata, se volete riascoltarci poi c'è il podcast da lunedì della trasmissione. In questa seconda parte ci occupiamo della Rete degli Orti Botanici della Lombardia, che ha inaugurato il 6 settembre la mostra itinerante ad ingresso gratuito, quindi un altro vantaggio per chi ha voglia di visitarla, dal titolo Seduzione e Repulsione, quello che le piante non dicono. Fino al 18 settembre questa mostra potrà essere visitata presso l'Orto Botanico di Pavia, dove l'abbiamo visitata noi insieme con Silvia Assini, presidente della Rete Lombarda degli Orti. Io ci tengo a precisare che anche se sono il presidente della rete, in realtà chi ha curato questa mostra è stato il nostro ex presidente, ora vice, quindi la professoressa Gelsomina Fico dell'Università di Pavia, e l'architetto Patrizia Berera, che ha curato tutta la parte comunque grafica, di design, perché perché insomma ci vogliono anche questi aspetti. Quindi in realtà sono loro le vere curatrici. Il titolo nasce proprio dal cercare di, ovviamente noi dobbiamo trovare dei titoli occupandoci di culture, di voler diffondere e divulgare la botanica presso un pubblico generico. Trovare un titolo che possa ovviamente attirare le persone e comunque i contenuti della mostra sono tutti orientati a mettere in evidenza alcuni dei meccanismi che le piante hanno evoluto di appunto per attrarre o attrarre amici e invece repellere nemici, perché essendo ferme loro purtroppo non possono né scappare né andarsi a cercare. Se vogliono sopravvivere, hanno messo appunto in atto questi meccanismi che noi abbiamo, diciamo, organizzato tenendo conto di alcuni temi, quindi meccanismi legati, non so, al colore, alle forme, piuttosto che anche alle, non so, a veleni, a sostanze che emettono. Quindi diciamo a queste varie sezioni, la mostra per ognuna di queste. Ovviamente facciamo vedere alcuni esempi perché è impossibile esaurire tutto il vasto range di relazioni che le piante intrattengono con il mondo circostante, e soprattutto la cosa importante è che questi meccanismi sono proprio meccanismi visti dalla parte delle piante, cioè la pianta li ha messi in atto per poter sopravvivere, per potersi riprodurre, quindi garantire la sopravvivenza della specie e quindi la biodiversità, anche se la pianta non ha il concetto di biodiversità, il concetto di mantenere se stessa, però è chiaro che più piante riescono a mantenere se stesse, più specie riescono a mantenere se stesse e più la biodiversità di un ecosistema è salvaguardato. C'è poi una piccola sezione che invece è dedicato a ma noi invece uomini come ci poniamo nel confronto delle piante, quindi alcuni esempi di relazione di attrazione e repulsione che noi uomini abbiamo nel confronto delle piante, e, anche se appunto è una piccola sezione perché ci interessa soprattutto mettere in evidenza ciò che fanno le piante. Faccio una domanda sulla biodiversità, per l'appunto. Il rischio biodiversità, la biodiversità è messa a rischio, diciamo, da condizioni che dipendono magari da noi uomini, magari dal nostro gradimento di una pianta o di un'altra, e dall'introdurre quindi in un sistema qualcosa che può mettere a repentaglio, insomma, la biodiversità. Sì. La biodiversità in questo momento è minacciata da tanti fattori. Uno dei più importanti è in generale la perdita e la frammentazione degli habitat, di cui è responsabile l'uomo, cioè l'uomo ovviamente degrada e elimina habitat per far posto o le attività agricole o le attività o a creare urbanizzazione, industriali, eccetera. Poi sicuramente oggi c'è anche il cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico, alterando appunto i climi, le temperature, per esempio soprattutto in alta montagna, sta facendo sparire piante che vivono ad altissime quote, che hanno bisogno di freddo, e magari questo freddo non c'è più come una volta. Ma poi appunto questo discorso che diceva lei, una delle grosse minacce è proprio questa, cioè l'introduzione di specie provenienti da altri territori. Noi appunto introduciamo piante che vengono magari qui in Italia, che arrivano però magari dall'Asia, dalla Cina, dall'America, perché ci piacciono, quindi per scopi ornamentali, per metterle nei giardini, ma a volte anche per produrre medicinali piuttosto che piante alimentari. Pensiamo a tutte le piante introdotte, il pomodoro, il mais, la patata, eccetera. Però ecco, qual è il problema? Che alcune di queste piante rimangono, diciamo, negli ambiti coltivati dall'uomo e non sfuggono, e quindi queste per noi comunque non rappresentano una minaccia alla biodiversità. Altre invece, purtroppo, quando arrivano in territori comunque nuovi, hanno delle appunto capacità di adattamento molto, molto spiccate, per cui si adattano molto bene, sfuggono dagli ambiti di coltivazione e vanno appunto ad invadere habitat naturali, facendo sparire quelle che dovevano essere invece le nostre piante tipiche. Esattamente come è successo per le nutrie, per gli scoiattoli, così via. Quello però lo vediamo. Ecco, è più evidente per gli animali, perché noi pur studiando la botanica, io mi accorgo, insegno botanica anche all'università, purtroppo l'animale ha sempre un appeal molto più forte, però in realtà anche nel mondo vegetale capitano questi fenomeni, e infatti una sezione della mostra, proprio in quella parte dedicata alla visione antropocentrica, è proprio destinata a far vedere questo aspetto, cioè noi botanici, ecologi che ci occupiamo di conservazione della biodiversità, Purtroppo in realtà noi proviamo repulsione per queste piante, che invece magari un architetto, un florovivaista o un amante del giardino trova invece molto attraente, perché appunto ha bei fiori, buone profumazioni e così via. Però insomma, ecco, la mostra vuole dare anche questa visione. Noi possiamo imparare a gestire la biodiversità in maniera adeguata se conosciamo. Allora, gli scienziati ovviamente fanno il loro lavoro, stanno cercando di scoprire le cose, fanno ricerca, però se i contenuti della ricerca non passano sul grande pubblico, non dico che sia inutile la ricerca, però verrà sicuramente meno apprezzata. E io credo che invece se il pubblico impara a conoscere questi aspetti legati alla biodiversità, non dico tutti, però gente sensibile che ha voglia anche di contribuire, quindi magari nel proprio giardino stare più attento, non usare più certe piante, ma usarne delle altre, perché poi l'altro messaggio che uscirà da questa mostra è: vabbè, ma noi allora cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare noi persone comuni? Quello che noi possiamo fare persone comuni è appunto aiutare la natura, in questo caso magari invece in giardino usando più le specie tipiche del nostro territorio, coltivando anche ortaggi eccetera, perché comunque anche questo tipo di biodiversità legata al mondo agronomico è utile. Ma soprattutto noi vogliamo dire alle persone: venite a visitare gli orti botanici, supportate, sostenete gli orti botanici, perché conservano dei saperi e comunque conservano e sviluppano saperi nuovi, che è importante divulgare all'esterno perché ci sia una migliore azione appunto di gestione e di conservazione della biodiversità. Certo. Quindi in conclusione, chi viene a vedere la mostra vede, vabbè, ovviamente molti pannelli, sì. Ciascuno rappresenta... Sì. Ciascun pannello a sua volta, oltre ad essere i pannelli organizzati per i temi che dicevo prima, forme, colori, profumi, sapori eccetera, ogni pannello avrà un accenno comunque ad un fatto artistico, letterario, che cerchi di magari una frase, che cerchi di, come dire, fargli ricordare quell'aspetto lì. Abbiamo poi due o tre esempi appunto di relazioni legati a quel tema, e una parte che dovrebbe essere tra virgolette un approfondimento scientifico, dove cerchiamo di spiegare la cosa in maniera scientifica come contenuti, però con un linguaggio che sia ovviamente comprensibile dal pubblico. E quindi c'è da leggere, ma c'è anche tanto da vedere, ci sono belle foto, belle immagini, a volte basta solo che una persona rimanga impressa una foto con una didascalia e già se se ne esce con uno di questi messaggi noi siamo contenti. Cioè sono mostre che uno può vedere per tutta intera, vede un solo pannello e non è che non perde il senso. E abbiamo magari c'è la possibilità di uscire e guardare anche il resto dell'orto botanico. Sì, assolutamente. Grazie e buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie ancora anche a Silvia Sini, che ci ha accompagnato in questa visita per una mostra che, ricordo, fino al 18 di settembre trovate a Pavia, ma che poi troverete a Bergamo e via via seguirà il calendario. La Rete degli Orti Botanici della Lombardia è l'organizzatore e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana alla stessa ora, ovvero sia alle 14:30. Da Laura Bettini, buon proseguimento d'ascolto.